i podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone. Dal 2014 a oggi, gli UAV in Ucraina, di Andrea Spada. È passato oltre un anno da quando la Russia ha iniziato l'invasione dell'Ucraina e questa guerra, per la prima volta, sta dimostrando che le capacità degli UAV, Unmanned Aerial Vehicle, stanno diventando sempre più centrali e rinunciabili nelle moderne operazioni militari. In questo articolo esamineremo gli aspetti UAV del conflitto ucraino, ponendo l'attenzione sulle aspettative deluse e le tante difficoltà per le capacità della Russia. Nell'articolo intitolato Russia's New Generation Warfare, pubblicato su Airmail maggio 2016, gli autori americani Philip Carber, un analista della difesa, e il tenente colonnello Joshua T. Bolt, un analista di sistemi di ricerca operativa dell'esercito, descrivono una serie di sviluppi legati agli UAV. Il primo di questi è nel contesto della guerra elettronica EW, commentando l'importanza dell'EW per l'esercito russo, classificando quattro missioni EW chiave, una delle quali è sconfiggere gli UAV. Essi osservano che la guerra elettronica è il principale killer dei sistemi ucraini, in quanto disturba i segnali GPS. È importante ricordare che le forze armate ucraine del 2014 erano totalmente diverse da quelle di oggi. La leadership era debole e lenta a reagire, l'equipaggiamento era di scarsa qualità e spesso limitato in quantità. Passando agli UAV, possiamo dire senza dubbio che quello ucraino è il primo conflitto in cui i veicoli aerei senza pilota sono presenti da entrambe le parti in numero significativo. La Russia impiega gli UAV per l'intelligence, la sorveglianza e la ricognizione, per l'acquisizione di obiettivi e l'ingaggio in tempo reale per il fuoco massiccio dell'artiglieria e, più recentemente, come bombardieri che trasportano esplosivi per colpire le aree di stoccaggio di munizioni, carburante, ma anche aree civili. Ciò che è stato significativo nella prima fase della guerra è che sia l'Ucraina che i separatisti del Donbass hanno modificato UAV di tipo commerciale per aumentarne le capacità, oltre a costituirne di nuove con componenti commerciali civili che potevano acquistare sul mercato internazionale. All'inizio del conflitto l'Ucraina aveva ben poco in termini di UAV, ma rendendosi conto dell'importanza delle capacità degli stessi, tanti cittadini ucraini hanno messo insieme le loro risorse per acquistarne di civili che potessero essere riutilizzati per uso militare. Questo è stato il primo caso di crowdfunding degli UAV. Lo sviluppo delle capacità UAV russe. L'ideologia alla base del putinismo richiede un rinnovamento nazionale della Russia e un ritorno alla grandezza. Come parte di questo processo, il governo russo ha cercato di riformare l'esercito e di riportarlo alla sua percezione di grandezza. Parallelamente, ha cercato di riportare l'industria russa della difesa alla capacità di sostenere una potenza militare sofisticata e di investire in ricerca e sviluppo per recuperare gli anni post-sovietici. Nell'aprile 2009 la Russia ha firmato un contratto con Israel Aerospace Industries del valore di circa 50 milioni di dollari per l'acquisizione del Searcher 2, del Bird Eye 400 e dell'Eyeview 150. In totale sarebbero stati acquistati 12 sistemi. Questa acquisizione ha dato alla Russia l'accesso alla moderna tecnologia UAV e le ha permesso di sviluppare competenze operative. Ha inoltre fornito la base per ulteriori acquisizioni di UAV israeliani da parte della Russia. Nell'ottobre 2010 è stato firmato un secondo contratto del valore di 400 milioni di dollari tra EAI e la russa Oberonprom. L'idea era quella di assemblare e produrre su licenza il Bird Eye 400 come Sastava e il Searcher 2 come Forpost presso l'Ural Civil Aviation Plant di Ekaterinburg. L'acquisizione di UAV israeliani ha rappresentato un importante sviluppo nella creazione di UAV russi. La Russia infatti ha sviluppato un sistema ad ala rotante molto simile al Kamcopter. Il sistema BAP di Dynamica Flight Technologies è entrato in servizio in Russia alla fine del 2020 e la sua funzione principale è quella di fungere da bersaglio per i sistemi di difesa aerea, replicando UAV ed elicotteri. Il fatto che la Russia fosse disposta ad acquisire sistemi stranieri indica quanto fosse preoccupata del fatto che le sue capacità UAV fossero rimaste indietro rispetto agli standard internazionali. Attualmente l'UAV russo più numeroso nel conflitto ucraino è l'Orlan 10, prodotto dal Centro Tecnologico Speciale di San Pietroburgo. È disponibile in diverse varianti, tra cui quella da ricognizione, quella IW e quella per le comunicazioni. Tuttavia, i programmi per lo sviluppo con gli standard dei sistemi statunitensi Predator o Reaper hanno dato scarsi risultati in termini di capacità funzionali e si capisce la volontà russa di voler recuperare il drone americano abbattuto a marzo sul Mar Nero. Tornando alle operazioni degli UAV russi nel Donbass, la Russia ha lavorato e lavora su un concetto chiamato Reconnaissance Strike Complex. In un RSC, gli UAV forniscono dati di sorveglianza e puntamento a un nodo di comando centrale, che poi coordina l'impiego dell'aviazione tattica, dei sistemi missilistici a lungo raggio o di altri fuochi a lunga gittata per colpire rapidamente gli obiettivi localizzati dagli UAV. Soluzioni inaspettate. La duplice debolezza dell'incapacità dell'industria russa di soddisfare la domanda interna e della sua dipendenza dai componenti stranieri è stata messa a nudo dopo che l'invasione dell'Ucraina del febbraio 2002 si è trasformata in un conflitto prolungato ad alta intensità. L'esercito russo si aspettava molto dai suoi UAV, ma si è trovato nell'impossibilità di rimpiazzare le perdite con la rapidità che avrebbe voluto. Inoltre, l'imposizione di embarghi commerciali ha reso sempre più difficile l'acquisizione dei componenti necessari. Per risolvere questa situazione, la Russia ha fatto qualcosa di inaspettato, rivolgendosi all'Iran per la fornitura di una serie di UAV, ma non solo. Alcune fonti hanno riportato la notizia che una nuova fabbrica per la produzione di UAV iraniani sarà costruita in Russia. I sistemi che verranno probabilmente prodotti sono lo Shahed 131, lo Shahed 136 e il Moayer 6. Una volta che il nuovo impianto di produzione russo sarà in funzione, ci sarà un sito di produzione sicuro, in grado di soddisfare i requisiti degli UAV russi e iraniani. UAV, la situazione attuale. I progressi della Russia in termini di UAV non sono stati una storia di successo e, per molti versi, la necessità di acquisire UAV iraniani è un'accusa piuttosto severa nei confronti degli sforzi russi per sviluppare le proprie capacità in questo settore. Per l'Ucraina, all'inizio, la situazione era molto diversa. Non aveva la massiccia base industriale della difesa né le risorse per finanziare lo sviluppo e l'acquisizione di UAV su larga scala. Ma ora è in grado di acquistare UAV. Nell'agosto 2022 ha acquistato 33 sistemi UAV Vector da una società tedesca, la Quantum Systems. Nel gennaio 2023 ha ordinato altri 105 sistemi Vector e, secondo i media tedeschi, ogni Vector ha un prezzo di 180.000 euro. Non c'è dubbio che l'Ucraina cercherà di rafforzare le proprie capacità UAV attraverso altre acquisizioni estere e sviluppi locali. I podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone.